Ok, ci siamo sempre qua. Dopo Missy Robinson, vi chiedo un'altra cosa. I testi erano molto importanti. Chiederò a Franco, chiederò ai due Franchi e anche a Lele. Io ricordo un testo bellissimo scritto da rifatto da Augusto D'Aolio, dei Nomadi, con Mogol chiaramente. Era un riparo per noi, ci parlava della bomba atomica, quindi del pacifismo. Franco, cosa voleva dire il pacifismo all'epoca, quindi il movimento hippie? Ma era un... beh, calma, da beat a hippie bisogna... C'è qualche anno, ci si arriva gradualmente. Però già qua, meglio un beat oggi che un soldato domani, c'è l'inizio del pacifismo nel movimento beat. Cioè, anche perché il movimento beat non è che ce lo siamo inventati noi italiani, certo. È nato, e lei lo sa bene, negli anni 50 con i vari poeti, Ghisbe, Ferlinghetti, Kero, eccetera, certo. Che erano dei pacifisti, erano degli artisti, vivevano nelle boate, nelle taverne, con la loro musica era l'art bop più che il bebop e così via, usavano le droghe leggere sempre, la Beat Generation usava le droghe leggere. Certo. Quindi questo trasferimento di valori della Beat Generation americana si è lievemente trasferito poco a poco nel movimento beat ma non italiano. Ha attecchito molto in Italia, non ha attecchito poco. La Beat Generation ha attecchito in Italia direi più l'esistenzialismo francese, sì, Sartre eccetera, quel filone là in Italia. I Reading, come esempio, i maglioni neri, diciamo così, i maglioni neri poi però li avevano anche i Beat nel, sì, primo album, certo. C'era un po' quel black che poi però è diventato un look, è stato come se fosse filtrato dal sistema che prende le forze rivoluzionarie, le assembla e le fa diventare consumo. È il solito discorso, succedeva allora come succede anche, sì, adesso. Cosa dici, gente come i giganti che ha portato Sanremo, mettete i fiori nei vostri cammini. Eh sì, perché il movimento pacifista c'era già e noi, il nostro cioè la frase importante era fate l'amore, non fate la guerra, certo, insomma, certo, chiaramente sì. i beat erano buoni, avevano i capelli lunghi che volevano identificarsi anche nel sesso femminile, prima c'erano quanti bulotti alla Elvis col ciuffo, con i muscoli e robe là, poi sono diventati auti, muscoli, tutte quelle manifestazioni di forza, quindi il beat era un movimento d'amore praticamente, certo, quindi essere un movimento d'amore condannava la guerra assolutamente, assolutamente poi la guerra. Chiaramente 67 guerra del Vietnam, ma quelle cose là sono venuti fuori gli hippie, il pacifismo è diventato esasperato giustamente. Il rock di B-Radio. Che pezzo ci fai sentire adesso, Lele? Adesso facciamo un pezzo dei Beatles. Perfetto, vai allora, Lele. Il pezzo è She's a Woman.